50 domande su Gesù. Come si spiegano i miracoli di Gesù? Fra le accuse più antiche dei giudei e dei pagani contro Gesù c'è quella di essere un mago. Nel secondo secolo, Origene confuta le accuse di magia che Celso fa al maestro di Nazaret e alle quali alludono San Giustino, Arnobbio e Lattanzio. Anche alcune tradizioni giudee che possono farsi risalire al secondo secolo contengono accuse di stregoneria. In tutti questi casi non si nega che Gesù fosse esistito né che avesse realizzato prodigi, si afferma però che i motivi che lo portavano a operarli erano l'interesse e la fama personali. Queste affermazioni sono contrarie alla verità storica su Gesù e sulla sua fama di taumaturgo, così come è stato dimostrato nei Vangeli. Oggi, fra i dati che si danno per dimostrati sulla vita di Gesù, c'è che operò esorcismi e guarigioni. Inoltre, rispetto ad altri personaggi dell'epoca, noti per i prodigi realizzati, Gesù si distingue sia per il numero molto maggiore di miracoli, come per il loro significato, assolutamente diverso da quello dei prodigi di alcuni di questi personaggi, ammesso che li fecero veramente. Il numero di miracoli attribuiti ad altri taumaturghi è molto ridotto. Viceversa, si contano 19 miracoli di Gesù nel Vangelo di Matteo, 18 in Marco, 20 in Luca e 8 in Giovanni. Inoltre, sia i sinottici che Giovanni parlano di molti altri miracoli di Gesù senza ulteriori particolari. Diverso è anche il significato. I miracoli di Gesù comportavano in chi ne beneficiava il riconoscimento della bontà di Dio ed un cambiamento di vita. La resistenza di Gesù a farli è la dimostrazione che non cercava la sua propria esaltazione o gloria. E questa è un'ulteriore loro caratteristica. I miracoli di Gesù vanno intesi nel contesto del regno di Dio. Se io scaccio i demoni per lo Spirito di Dio, è che il regno di Dio è giunto a voi. Gesù inaugura il regno di Dio e i miracoli sono un invito a una risposta di fede. Questo è fondamentale e distintivo dei suoi miracoli. Regno e miracoli sono inseparabili. I miracoli di Gesù non erano il frutto di tecniche, come se fosse stato un medico, o dell'azione di demoni o di angeli, come se fosse stato un mago, ma il risultato del potere soprannaturale dello Spirito di Dio. Pertanto Gesù fece i miracoli per confermare che il regno era presente in lui, per annunciare la sconfitta definitiva di Satana e per aumentare la fede nella sua persona. Non possono spiegarsi come prodigi sorprendenti, ma come attuazioni di Dio stesso con un significato più profondo che il fatto prodigioso. I miracoli sulla natura sono segni del fatto che il potere divino che opera in Gesù si estende oltre il mondo umano e si manifesta come dominio anche sulle forze della natura. Le guarigioni e gli esorcismi sono segni del suo potere di salvare l'uomo dal male che minaccia l'anima. Le une e gli altri sono segnali di realtà spirituali. Le guarigioni del corpo, cioè la liberazione dalla malattia, significano la guarigione dell'anima dalla schiavitù del peccato. Il potere di scacciare i demoni indica la vittoria di Cristo sul male. La moltiplicazione dei pani allude al dono dell'Eucarestia. La tempesta calmata è un invito a confidare in Cristo nei momenti burrascosi e difficili. La risurrezione di Lazzaro annuncia che Cristo è la stessa resurrezione ed è figura della resurrezione finale, eccetera.